Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day. I've got the spirit, music, take the shuffle away. E dopo una settimana di essenza torna Disorder come ogni venerdì dalle 15.30 alle 17. Con l'elettro dei controlli, con la consueta selezione incentrata più che altro sulla new wave, il gothic e naturalmente molto elettronica. Per oggi, che rappresenta diciamo l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva che farà la radio stessa da qui a breve, per riprendere a fine agosto. Ricordo che ci sarà una puntata speciale il prossimo mercoledì sera, 8 agosto, di prove tecniche di trasmissione, con le stranezze, scheletri negli armadi e quant'altro, del sottoscritto di 25 O'Clock, la trasmissione che va in onda in genere alle 22.30 dopo il sottoscritto. E il prossimo mercoledì saremo, come dire, in comune e a gestire insieme lo spazio. 0649 1750 il contatto telefonico, il sito internet www.ondarossa.info anche per ascoltarci attraverso un computer e via streaming. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info e per questo spazio è disorder@ondarossa.info. Per quanto riguarda la sopravvivenza e la vita di questa radio, più che altro c'è sempre disponibile il nostro conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Vosci 56 00185 Roma. Conto corrente utile anche per le spese processuali di Alberto e degli altri compagni vittime del giudizio del G8 del 2001, e in questo caso bisogna mettere la causale cassazione. E quindi naturalmente il nostro saluto va in primis ad Alberto, a tutto il proletariato detenuto. Salutiamo anche il buon Andrea che generalmente ci anticipa rispetto a Disorder, ma purtroppo per un fastidioso infortunio è costretto all'immobilità nella sua casa. Nel caso in cui fosse all'ascolto, chiaramente lo salutiamo caldamente. Detto questo, siamo anche contenti di aver incontrato un paio di persone a noi molto care che non vedevamo da molti anni qui sotto in Via dei Vosci e che forse magari stanno anche loro all'ascolto, chissà. Salutiamo il buon Enrico, Cristina, e si va ad iniziare. Lo facciamo con Argine, questo gruppo che ormai ha uno spazio molto importante nel panorama italiano per quanto riguarda il neofolk e dintorni, anche se il neofolk è un termine riduttivo rispetto agli Argine. Questo è un lavoro che si chiama Rifrazioni, che in realtà è composto da diversi remix e nuove versioni di vecchi brani. Ci andiamo ad ascoltare Memorie e Rifrazioni, i due brani che lo vanno a concludere. Agli occhi si apre appena avanti la forma composta di un campo piano. Vince il senso della distanza trasmesso da un compatto rigore. la virtù è valore che desta tempi che resistono. Si respirano odori di chiuso, svelati da ciò che consumato. Credo nell'immutabile senso vivo di immortalità, di chi ha lasciato una scia dietro di sé. Scompare è forte il silenzio dei ricordi riflessi da parole altrui. Itinerari eroici di audaci legionari del tempo mostrano chiara la via e bradi. Se un'era di gloria, respirando speranze disfatte, avrei più chiaro il senso dell'oggi, che intriso riposa in immobile ardore. Ma un muro chiaro mi chiude al suo interno, un velo sottile che rompe il contatto. Con tutte le vite di uomini che si aprono a ventaglio in sepolte oramai nel campo di croci. Combatto uniforme al Bene, si chiamava Rifrazione, un lavoro degli Argine, progetto proveniente da Caserta. Naturalmente per la loro label, la Arc Records, questo Rifrazione è un album che contiene in realtà dei remix di brani già usciti nel passato, antecedente al 2003, la data di uscita di questo Rifrazione. E quindi ci siamo ascoltati l'ennesima versione di Memorie e questa Rifrazione che andava a chiudere l'intero lavoro. E sugli Argini andiamo a salutare di nuovo Enrico, il buon Andrea, redattore di questa radio, ahimè infortunato. Salutiamo Karin, Alexia, Sound Beyond the Corner, un grosso braccio da Bologna, Marco da Cremona, se non erro. E quindi noi si va avanti e cambiamo decisamente genere. Mark Almond è un artista che sia a livello solistico che come soft cell abbiamo apprezzato molto. Si perdono tra figure di cemento grigio. Qui ho una compilation che racchiude i singoli che vanno dal 1984 al 1987. E quindi ci ascoltiamo The Boy Who Came Back, You Have. Job and he prayed he'd not left it to defeating track. Mother was gone, but his wife and child were living on, and they cried, "It's the boy who came back." Goodbye through the evening, goodbye through the night, goodbye for the dreams, for the sleep. Goodbye to our yesterdays, hello tomorrow, since we were destined to meet. He turned and he said, well, we always had time on our side, and it's time for this boy to turn back. He turned and he said, well, we always had time on our side, and it's time for this boy to turn back. He turned and he said, well, we always had time on our side, and it's time for this boy to turn back. Era Mark Almond, ripreso da questo CD che richiude i singoli dal 1984 all'87. Due tracce abbastanza note, The Boy Who Came Back e questa You Have. Un saluto anche al buon Angelo che ci ascolta da Riano, e che vuol dire no discarica, ultimamente quasi un sinonimo. Un grosso abbraccio ad Angelo. Ebbene, lasciamo Mark Almond con queste tracce, per certi aspetti anche raffinate, devo dire, degli ottimi arrangiamenti che hanno contraddistinto Mark Almond sia nella sua dimensione solista sia in quella dei più antichi Soft Cell. Veniamo più o meno ai giorni nostri, ci trasferiamo nella Minimal Wave, lo facciamo con un progetto proveniente addirittura dalla Serbia, si chiamano 6 June, questo è Back for a Day, in realtà un mini CD, un EP di 5 pezzi uscito per un'etichetta italiana, la Mannequin, esattamente di Roma, del buon Alessandro Adriani. E oggi ci ascoltiamo Inside della conclusiva 82. E dunque dalla Serbia questo duo si chiamano Six June. Il fatto che vengano dalla Serbia indubbiamente ci alimenta la nostra curiosità. Ma evidentemente chi ha in qualche modo aperto una strada è il prossimo artista. Si chiama Martial Cantarell, proveniente dagli Stati Uniti, e incide per la Word, etichetta anch'essa proveniente da quelle parti. Un album del 2011, se non erro, che si chiama You Today, dal quale estraiamo Market e Side Streets, e quindi, come potrete apprezzare, si rimane più o meno sulle stesse atmosfere.